24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Anna Marino, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. L'Unione Europea esprime solidarietà all'Italia per il terremoto che ha colpito l'Emilia ed è pronta ad aiutare concretamente il nostro paese, ha detto parlando in italiano il presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, in apertura della conferenza stampa di presentazione delle raccomandazioni economiche all'Unione Europea. Sentiamolo. Lasciatemi esprimere, a nome dell'intero collegio e a nome mio, le nostre condoglianze alle vittime del terremoto più recente che ha avuto luogo in Italia il 29 maggio. La Commissione europea è profondamente rattristata ed esprime la sua piena solidarietà ai cittadini italiani. Nell'ambito delle nostre possibilità, siamo pronti ad aiutare concretamente l'Italia a far fronte alle conseguenze di queste e delle altre recenti catastrofi naturali. Il commissario europeo alla politica regionale, Johannes Hahn, si renderà nella regione di Emilia-Romagna il domenica 3 giugno, lo accompagnerà il vicepresidente Antonio Tajani. La crisi economica adesso, l'Italia, ha risposto negli ultimi mesi in maniera ampia e determinata all'esigenza di mettere in sicurezza i conti pubblici, ma ora è cruciale la corretta implementazione delle riforme. Queste le raccomandazioni della Commissione europea a Roma. Squilibri seri, non eccessivi, ma che vanno affrontati, in particolare l'alto indebitamento pubblico e gli sviluppi macroeconomici nella performance sull'export meritano attenzione in quanto l'Italia ha perso competitività dall'adozione dell'euro, priorità assoluta per Roma, incrementare il potenziale di crescita. Queste in sintesi le raccomandazioni ieri della Commissione europea, un elenco in 7 punti dove spiccano la necessità di implementare correttamente le riforme strutturali dopo aver messo in sicurezza i conti, una strategia di risanamento che va comunque portata fino in fondo, precisa Bruxelles. Ma ci sono altri punti su cui la Commissione insiste: la necessità di ulteriori e risolute azioni sull'evasione fiscale, la riduzione del livello di disoccupazione tra le donne e i giovani, anche se la riforma del mercato del lavoro viene giudicata come sufficientemente ambiziosa, infine il dualismo nord-sud giudicato preoccupante. La Spagna resta il primo osservato speciale non solo dei mercati ma anche a Bruxelles. La Commissione lancia l'allarme su Madrid, che rischia seri problemi se non interverrà presto sulle finanze pubbliche e sulle leve economiche. Infine il presidente della Commissione Barroso ha ampiamente caldeggiato una maggiore integrazione delle politiche economiche europee con un sistema comune di garanzie sui depositi bancari e un'unione bancaria della zona euro con supervisione finanziaria integrata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A commentare le raccomandazioni il Presidente del Consiglio Mario Monti. A noi qui oggi, mentre era in corso questa conversazione, gli altri commissari non lo sanno, ma è arrivato il faro di una comunità, perché proprio qui oggi ho avuto notizia che a Bruxelles la Commissione europea ha emesso il suo verdetto sulla condizione economica dell'Italia. Voi sapete che certamente non si vive di sola economia, ma che oggi per un paese nella tempesta monetaria e finanziaria è importante venire percepito come un paese che è su una solida rotta di risanamento. Questo è stato il giudizio che ci è venuto. Mi ha fatto molto piacere. Sempre in tema di economia, sentiamo com'è andata la giornata in borsa sui mercati europei. Sedute in profondo rosso per le borse, depresse da un mix di fattori che aggravano ulteriormente la crisi europea del debito. Tra questi spiccano il no della BCE al salvataggio della banca spagnola Bankia e gli ultimi sondaggi elettorali che in Grecia danno in vantaggio i partiti antieuropeisti. Così neppure la richiesta da parte della Commissione europea di un intervento diretto del fondo anticrisi per ricapitalizzare le banche riesce ad arginare le perdite dei listini. Ieri Parigi ha ceduto il 2,2%, Francoforte l'1,8%, Londra l'1,7%, mentre a Milano il FTSE MIB ha chiuso a meno 1,79%. A Piazza Affari a picco Fiat, meno 5% con tutto il comparto auto europeo, BPM meno 4,8% e Impregilo meno 4,7%. Tengono le banche, col Banco Popolare avanti dell'1%, mentre cede l'intero comparto energetico, con Eni e Enel che lasciano sul terreno l'oltre il 2%. Telecom Italia, più 1%, si risolleva dai minimi storici sulle ipotesi di una collaborazione con Metroweb per lo sviluppo della banda larga, mentre Fiat Industrial, più 1%, festeggia l'integrazione con la controllata CNH e il probabile delisting da Piazza Affari. Ciò Condina da Radio Corp e Radio 24 e Sole 24 Ore. Continua il dibattito nella comunità internazionale sulla situazione in Siria. Anche il Consiglio d'Europa ha condannato duramente la strage di civili di Hula. Comitato dei ministri e assemblea parlamentare sono convinti che il piano di Kofi Annan sia l'unica strada percorribile per la risoluzione della crisi. L'intervento militare sotto l'egida dell'ONU, ipotizzato dal presidente francese Hollande, è dunque ancora al centro del dibattito. Il ministro degli esteri belga Reinders ha affermato che la comunità internazionale non otterrà niente da Assad senza una presenza militare nel paese. La Germania, invece, per bocca del portavoce del ministro degli esteri Westerwelle, ha detto di non vedere alcun motivo per parlare di un intervento militare. Proprio la Siria sarà il tema principale del prossimo incontro fra Angela Merkel e Vladimir Putin, in calendario il 1 giugno a Berlino. La Russia, che ha condannato l'espulsione degli ambasciatori siriani da molti paesi europei, si è detta pronta ad esercitare il veto nel Consiglio di sicurezza dell'ONU contro un intervento militare in Siria. Lucio Bondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Confermata l'estradizione per il fondatore di WikiLeaks, Assange. It follows that the request for Mr. Assange's extradition has been lawfully made and his appeal against extradition is accordingly. L'eco della sentenza risuona nell'aula quando il presidente della Corte Suprema di Londra, Lord Phillips, legge il verdetto. Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, potrà essere estradato in Svezia, dove è accusato di violenza sessuale. La Corte britannica precisa non ha analizzato i fatti, ma solo i dubbi di natura legale sollevati dal caso. Respinto quindi l'appello dei legali, che però avranno a disposizione 2 settimane di tempo per presentare un nuovo ricorso. Per l'ex hacker, infatti, l'ultima possibilità di evitare la Svezia sarebbe quella di appellarsi in ultima istanza alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo. Sulla testa di Julian Assange, che ha seminato il panico ai piani alti di tutti gli stati del mondo pubblicando documenti top secret, pende il mandato d'arresto europeo di Stoccolma. L'accusa è di violenza sessuale, di aver avuto rapporti non protetti con 2 donne, di aver rifiutato di sottoporsi a un controllo medico sulle malattie a trasmissione sessuale. Un reato, questo, che in Svezia viene punito. Doriana Leonardo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non cambia la gestione delle terme di Fiuggi. Gli inglesi della YK Financial Service, società di intermediazione finanziaria, non gestiranno più il complesso termale della cittadina. È saltato infatti l'accordo con l'azienda Terme di Fiuggi S.p.A. & Golf, che aveva deciso di cedere l'80% del pacchetto azionario alla finanziaria inglese con sede a Londra. Oltre 10.000 i professionisti che fra il 1997 e il 2010 hanno lasciato l'Italia per trasferirsi in altri paesi europei, lo dice uno studio del Forum Nazionale dei Giovani in collaborazione con il CNEL. La maggior parte, oltre 4.000, si è trasferita in Gran Bretagna, 1.500 circa in Svizzera, 1.100 in Germania. Dall'Italia si allontanano soprattutto medici, insegnanti delle scuole superiori, avvocati ed architetti. Ma il nostro paese è anche in grado di attrarre professionisti dall'estero, tanto che il saldo fra gli arrivi e le partenze è positivo per circa 1.000 unità. Si trasferiscono in Italia soprattutto i professionisti rumeni, oltre 5.000 fra il 97 e il 2010, seguiti da spagnoli e tedeschi. Si tratta per la maggior parte di personale a medio-bassa qualificazione, soprattutto infermieri. Il Forum dei Giovani e il CNEL individuano alcuni ostacoli da rimuovere per la libera circolazione dei professionisti in Europa, fra cui il riconoscimento reciproco dei titoli di studio e il livellamento dei percorsi formativi. Da questo punto di vista, i professionisti più agevolati nella mobilità in Europa sono i medici e gli architetti. Incontrano maggiori difficoltà invece gli psicologi e i giornalisti, ma i problemi più seri riguardano notai, commercialisti, consulenti del lavoro ed avvocati. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questa sera al Piccolo Teatro Studio Expo di Milano il primo appuntamento con Masterclass 2012 tra Madrid, Rabat e Milano, un progetto di pedagogia teatrale che si traduce in uno spettacolo, Samira alla prova, commedia della drammaturga spagnola Ana Fernández Valbuena. Soprattutto si tratta di un progetto di pedagogia nell'ambito del teatro che cerca di lavorare sulla conoscenza reciproca di 2 culture, di 2 popoli, il Marocco e la Spagna. Diciamo, la funzione dello spettacolo trascorre in una sala prove ed è ispirata un po' alle esperienze che ho vissuto in prima persona qui al Piccolo, studenti, professori di diversi paesi, dalla Turchia, dal Marocco, dalla Spagna, la scuola dove vengo io, la Resa di Madrid, anche della Tunisia l'anno scorso, e quindi un po' il pezzo è stato tratto dall'esperienza vissuta anche qui. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Anna Marino.